passare da dietro, però inizia a essere un po' difficoltosa la situazione anche da un punto di vista della luce, quindi poi dopo magari si va di qui. Come dicevo prima, allora l'attacco avviene da questa parte, però avviene anche dalla parte, dalla parte dietro, e l'operano in particolar modo, se vi ricordate, cioè, le brigate, la Sinigaglia, la Vaglini e la Lanciotto vanno in piazza Dalmazia. Qua giù invece si forma una brigata apposita, sì, e sono tutti di Giustizia e Libertà, che è la parte armata del Partito d'Azione sostanzialmente. Quando tenete presente che la fabbrica a marzo del 43 fu, insieme alla Nuova Pignone e all'Officina del Gas, furono le grosse fabbriche fiorentine che fecero sciopero proprio sotto la dominazione nazista sostanzialmente. Quindi insomma non c'è solo l'aspetto logistico, non c'è solo l'aspetto diciamo difensivo, non c'è solo l'aspetto della grandezza dell'area, ma c'è anche il fatto che rappresentava la difesa da parte dei nazi e la conquista da parte dei partigiani, una cosa importante anche da un punto di vista politico sostanzialmente. Come anche politica, e qui riprendo il discorso delle incursioni lungo le ferrovie, cioè loro, diciamo, i nazisti, i nazifascisti, non avevano sostanzialmente nessuna possibilità da un punto di vista militare di riprendere la linea del fronte. Queste incursioni le fanno praticamente per vendetta sotto certi aspetti e anche per un aspetto politico, cioè sapendo che non c'erano gli alleati ma c'erano i partigiani, allora per questo venivano fatte queste incursioni guidate chiaramente o sobillate, diciamo, comunque decise anche dai fascisti locali, insomma, perché sapevano che andavano contro le truppe partigiane, no, contro gli alleati. Quindi da un lato questa incursione qua, dall'altro questa difesa della Galileo e quindi anche la conquista della Galileo, sono sostanzialmente aspetti anche politici. E il 22 viene definitivamente espugnata, si insedia subito un comitato di gestione per la gestione appunto delle officine, che provvede subito all'alloggiamento, il rifornimento dei generi di prima necessità per tutti i quartieri. Tenete presente, siamo a agosto, uno degli agosti più caldi di sempre, insomma forse non se la stavamo in quest'estate qui, però sostanzialmente sì, anche perché non si sa quanto accidentalmente, probabilmente del tutto accidentalmente, però durante un'incursione alleata per alleviare, diciamo, l'assedio all'ospedale di Careggi, fu colpita la cisterna d'acqua che riforniva tutti i quartieri sostanzialmente. Quindi a tutti i problemi diciamo derivanti alla guerra ci fu quello anche della mancanza di acqua, e quindi le officine Galileo diventarono subito il punto di riferimento per gli sfollati della zona, per i pasti e via dicendo, oltre al fatto che si impossessarono subito delle apparecchiature. Partigiani, se ne presentano apparecchiature d'eccezione sostanzialmente, perché specialmente da un punto di vista militare, perché c'erano, specialmente da un punto di vista ottico, perché facevano anche, cioè potevano essere trasformate subito, insomma, in mirini, canocchiali, insomma, canocchiali li facevano già, però diciamo facevano le lenti e conseguentemente mirini, canocchiali, macchine fotografiche, tutta questa roba qui era di vitale importanza, insomma, per la liberazione e anche per il proseguo della guerra. Era la fabbrica più grande d'Italia da questo punto di vista. 2000 operai, cioè. Sì. 2000. Ok. Fine. Ah, sì, continuiamo, visto che non si fa il giro qui, e visto che si passa qui, ai due lati del portone dell'SMS Rifredi ci sono due targhe che proprio sono a testimonianza, diciamo, della battaglia avvenuta. E anche l'SMS divenne, anzi l'SMS era come dire, cioè proprio come dire, la tenda, come si può chiamare, insomma proprio il comando si insedia lì, cioè lì sopra, cioè qui all'angolo qui, il comando sì. vero e proprio, però diciamo la fureria, tutta questa roba qui era lì all'SMS di Rifredi. E nulla. Quindi siamo.